Nessuno me l'ha detto. Forse nessuno lo sapeva. Invece mia zia dice che sì, e mo che lo sai, sape tutto cosa. E proprio perché si rossa abbastanza, no? Ma io non so se si sia mai rossa abbastanza. Per sapere che tua nonna se la faceva con i marinai e con gli altri disgraziati di città. Addirittura. Aveva iniziato da una vecchia vajassa che le sfruttava tutte. Che erano assai. E tutte piene di malattie, che non c'era mica granché controllo allora. Eh già, perché quando era piccerella era stata trasferita al nord da un'amica della mamma, a vivere là. Che col papà in guerra la mamma mica ce la faceva a tirare avanti da sola. Erano 6 maschi, e che la femmina solamente. La prima. Che chi la voleva una femmina per prima? A proprio seconda, per terza, per ultima. A quei tempi. Nessuno la voleva. Nessuno. E così mica si era affezionata tanto la mamma a quella primogenita inutile. Che se i figli vengono al mondo come li pare a loro. Ah! Ma se già si capisce che saranno solamente un problema per i genitori. Appena maturi vanno spremuti. Che rendano qualcosa prima di diventare un guaio. Che Noir era diventata bianca. Che così si faceva chiamare perché non ci piacevano un masoio. E te credo. Buttato là all'anagrafe. Dal padre. Tanto per rispondere a un impiegato che non vedeva l'ora di tornare dagli spaghetti incollati della moglie. Sconditi come la moglie. Ma come lei abbondanti. Per poterlo saziare. Noir era diventata nel giro di un anno. Ed era stata sbattuta di nuovo qua, dopo che un bel po' di uomini se l'erano sbattuta là, attaccandole qualcosa di strano e biancastro e bavoso alla bava del suo strumento di lavoro. S'era indebolita Bianca e la mamma aveva perso il papà. E così come al solito, pioveva dove doveva. E così, come al solito, pioveva sulla mala voglia di vivere, che uno dice, eppure Bianca lo diceva sempre. Ma che vita è questa? E perché? Nessuno le rispondeva, tranne la vecchia vajassa. Cacciamonavano pacchi, dicendo che tutto si può fare, uè, tutto, tranne disprezzarla questa vita qua, che non si sputa mica nel piatto in cui mangi. E questo però era prima, perché dopo tornata aiutava la mamma dentro casa. Eh sì, perché adesso la mammina, disperata, aveva liberato la stanza dei figli e l'aveva fatta diventare deliziosa e piena di ninnoli di bimba. E ci aveva parcheggiato dentro Bianca, affinché sembrasse la più amata sulla terra e invogliasse già vogliosi maschioni a tornare. Ogni uomo passato di là. Ma era per Nella un'energica spazzolata che la mamma le serbava con fiocchetti e ciuccetti ben tirati a farle il visetto ancora più sbarazzino. Nella, sì. Questo era il suo vero nome. E ditemi un po' voi che vuol dire. Cioè, che significa? Nella. Fa pensare a una stoffa beige. Che penso la terra appesa al soffitto della finestra. Ma anche uno soprammobile, ma uno straccio scolorito. Che sta là. E per proteggere si scotta al sole. O che tirato bruscamente da parte, spia le nuvole, la pioggia. Umido e sgualcito. Ha un risvolto per tutti, uno per pochi, e nasconde la realtà di tanti. Che per il paese tutto Nella era ammalata grave, in fin di vita. Ah, Ma allora per questo tutti quei dottori stranieri che l'andavano a trovare. Che poi pure i paesani ci andavano. C'era pure però chi di notte andava dalla mamma. E lei comunque non poteva uscire, era ammalata. Anche se urlava, si disperava e spiegava alla mamma che non si era mai sentita meglio. Non c'era verso. Che dicesse a gente si sapesse che stai buona. Ah, che dicesse me se io sapesse veramente. Me ne cacciassero. E come dirassi, innanzi te, o fratello tuo piccirillo, che tra un po' dovrà pur sposarsi o no, e ci servirà pure una sfaccimma di dote. Egoista. Le gridava quella santa madre. Egoista, si ripeteva lei. Bestiaccia da somma. È che non lo sapevo prima, hai capito? Lo so solamente adesso, grazie a cugino, ma. Ah, lui vive a Napoli. Viene a trovarmi ogni tanto a casa mia, quella che vivo da solo. No, non viene mai in quella che vivo con nonna. La mia vecchia, dolce, saggia nonna. Puttana! Issa diceva che non c'è stato problema con mia nonna, no. Che poi era pure nonna Issa. Ma io capivo che c'è stato problema, sai perché? Perché la chiamava a Natale e non a Pasqua. E le faceva gli auguri accodandosi ai fratelli in fila davanti al telefono delle feste. O padre? O padre non si metteva in fila. E adesso ho capito il perché. Perché o padre o padre cugino, ma. Il padre di mio zio, insomma. O nonno cugino, ma. Era stato cliente di Bianca, racconta cugino, ma. Eis, mio zio. Si era per caso innamorato della figlia di Bianca, senza sapere che fosse la figlia di Bianca, scoprendolo il giorno del fidanzamento in casa e scoprendolo ovviamente insieme al suo di padre, o nonno e cugino, ma. E al padre del padre, il bisnonno, che era anche lui uno di quelli che si fermava la notte dalla madre di Bianca. La mia santa bisnonna. Figuriamoci quando mio zio capì che si stava sposando con la figlia di Bianca. E il padre scoprì che si stava sposando con la figlia di Bianca. Non voleva che se ne facesse più niente di niente. Ma mio zio era innamorato. E certo al 100% della purezza della figlia di Bianca, di cui certo non si conosceva la paternità. Oh. Vuole sposarsi ugualmente, senza il padre al matrimonio e senza il padre per il resto dei suoi giorni, i giorni del padre intendeva. Fortunatamente pochi. Giorni di vergogna. La vergogna di chi gode in segreto dei piaceri della vita, finché pesano sugli altri. Le disgrazie a questo mondo sono tante, ma tante di più grazie alla fantasia disarmante dell'uomo, l'animale che ha continuato a scavare nascondigli, che ha paura di essere felice, e che ha paura di chi è felice, e che ha paura di non saper gestire la libertà altrui che gli ricorda la propria, cancellata e dimenticata da lui o da chi per lui, con rabbiosa e devastante violenza, nel corso dei secoli. Dei secoli, dei secoli, per Dio! Credo proprio però che da oggi in poi andrò in giro presentandomi non più solo come Lorenzo, ma come Lorenzo il nipote. Piacere. Io sono Lorenzo il nipote di Bianca la puttana. Hai capito? Credo proprio che andrò in giro a raccontare come ci si sente ad avere una puttana in famiglia. E ci si sente buona. Ci si sente buona, sì, che la puttana è nonna, da. E si intiene niente, se niente è di più caro sulla faccia della terra. Se Se quella puttana di tua nonna è anche tua madre, da quando presto? Troppo presto. O forse il giusto. Sei rimasto solo. E mi ha attirato su lei. Così come lei. Libero e onesto. E mia nonna Nella mi ha attirato su. Libero come poca gente al mondo. Libero anche di fare la puttana se voglio. Una puttana onesta però. E un po' puttana lo sono anch'io, visto il numero di uomini e donne che mi sono scopato nel corso degli anni. Un bel numero, sì. Aggiungicelo bene. Un bel numero. Ma d'amore. Perché è amore? Quello che ti spinge a stringerti e ad infilzarti sul muscolo di vibrazioni e sorrisi e passioni e carezze e desideri di un altro come te. Certo, a quanto pare mia nonna Nella non fu libera. Lo è diventata, forse. Certo, lo sapeva insegnare, però. E io lo so. Come so bene che la libertà porti il rispetto, come so bene che grande responsabilità sia l'essere liberi su questa terra. La libertà di essere e fare quel che si deve, per poi essere e fare quel che si vuole, non ha prezzo. Ma se non fa male a nessuno, e non ferisce nessuno, non violenta nessuno, ha fatto male a mia nonna Nella, certo, perché non era la sua. Qualcuno l'aveva scelta per lei, e qualcun altro si era approfittato di lei, e qualcun altro ancora aveva sputato su lei e sulle disgrazie di lei, che a suo tempo per lui erano state un piacere. Pochi anni, fortunatamente pochi anni ha vissuto ancora quell'uomo, che non si è vergognato di andarci ogni volta che ci è andato. Quell'uomo che mai si è vergognato di sputare sul piatto. Quell'uomo, per Dio. Una donnina fragile, debole d'aspetto, non certo di carattere. Distratta. Fra le nuvole. Ecco. Ci ha sempre sorvolato lei. Semplicemente lontana dall'idea costante di ricavare vantaggi. Preoccupata di inciampare, semmai. Ha conciato con mano a barbone, l'aro l'aspettano. E invece... nobile luce e color, una principessa, e vestita e sentimenti in tofang. A non c'è sta appuntamento se non con il destino. Dondolio d'occhi. Occhi era consulà. La mia nonnina. Marmo levigato. Nella mia.